Sono partito senza proprio andare via per cercare l'aria lieve. Io lo sapevo di non avere troppa compagnia, chi ho chiamato non si vede. Lo sento che posso trovarti ancora nell'aria lieve. Mi aspetto a breve un gioco fatto senza regole nell'aria lieve. La filosofia che mi tira su e mi rende tutto troppo semplice nell'aria lieve. La malinconia non mi prende più, mi si scioglie il cuore come fosse fatto di neve nell'aria lieve, nell'aria lieve. Sono arrivato alla fine della ferrovia per cercare l'aria lieve. Io lo sapevo di non avere troppa compagnia, chi ho chiamato non riceve. Lo sento che posso trovarti ancora nell'aria lieve. Mi aspetto a breve un gioco fatto senza regole nell'aria lieve. La filosofia che mi tira su e mi rende tutto troppo semplice nell'aria lieve. La malinconia non mi prende più, mi si scioglie il cuore come fosse fatto di neve nell'aria lieve, nell'aria lieve, ma qualcosa mi manca ancora, un'altra vita, il tempo di una sigaretta per cercare ancora un po' di cambiare il mondo, è una cura per il mal di testa. Lo sento che posso trovarti ancora nell'aria lieve. Mi aspetto a breve un gioco fatto senza regole nell'aria lieve. La filosofia che mi tira su e mi rende tutto troppo semplice nell'aria lieve. La malinconia non mi prende più, mi si scioglie il cuore come fosse fatto di neve nell'aria lieve, nell'aria lieve. Sento che posso trovarti ancora nell'aria lieve. Mi aspetto breve un gioco fatto senza regole nell'aria lieve. La filosofia che mi tira su e mi rende tutto troppo semplice